Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa, perché oggi abbiamo anche più interventi ospiti di quelli in scaletta. La scaletta comunque la potete trovare sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, idem su Facebook c'è la pagina Visionari, per comunicare con noi indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda la diretta ci potete ascoltare sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, perché dal sito internet della radio c'è questa possibilità. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta e quindi così è per lo streaming. Ritroviamo Giancarlo Bocchi, regista del documentario Con i partigiani sull'Appennino, che è uscito il 21 aprile. Giancarlo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Devo però precisare che il documentario non è mio, è stato girato nel 1944-45, io non ero ancora nato. Però tu l'hai curato, insomma, questa riedizione. Sì, ho curato la riedizione, il restauro e ho fatto anche le musiche. Bene. E la sonorizzazione. Allora, raccontaci un po' che storia è questa che hai... È la storia di un documentario... molto significativo, perché non ci sono molti esempi di documentari girati all'interno delle formazioni partigiane, anche perché c'erano degli ovvi motivi di sicurezza, il materiale poteva finire in mano ai nazifascisti, quindi in questo caso però questo cinematore di Parma riuscì a convincere i partigiani della Terza Giulia ad avere la loro fiducia, a riuscire a girare delle immagini veramente molto significative e molto importanti. Una parte del materiale venne, diciamo, distrutto per evitare che venisse preso dai nazisti durante un rastrellamento nel novembre del 1944, però il resto è veramente un documentario narrativo, forse l'unico esempio di documentario completo sulla resistenza. Per un totale, scusami, no. Giancarlo, di che qual è il minutaggio? Ora attualmente con di 18 minuti. Di 18. C'era qualche scena in più, però era molto rovinata, ho dovuto sopprimerla. Sì. Ecco, perché non era possibile restaurarla adeguatamente. Sì. E devo dire che l'impatto adesso con i suoni reali e con tutto il resto è veramente notevole. Senti Giancarlo, quindi, che tipo di distribuzione avete pensato e attuato per questa uscita? Ecco, diciamo che il documentario, assieme al nuovo libro, al reprint del libro del 1922 di Guido Picelli, Unità e riscossa proletaria, esce nelle librerie e a Parma anche nelle edicole. Devo aggiungere che mi sono rifiutato di vendere questo gioiello a Historia nei giorni scorsi, perché non voglio fornire nessuna foglia di fico ad un'azienda che, visti i contenuti della programmazione, dovrebbe tornare a chiamarsi Eier come ai tempi del ventennio. È un problema molto grande questo qui, sì. della fascistizzazione dei programmi di storia della RAI, che molte volte coincide con dei problemi di audience, nel senso che fanno molto audience con Mussolini e Hitler, e quindi anche non soltanto per motivi politici, ma anche per motivi di audience, c'è questa veramente intollerabile situazione per la quale la programmazione al 90% è affidata a questi contenuti e a degli storici prezzolati dalla RAI che propriamente non stanno attenti a quello che dicono, diciamo così. Io ho segnalato più volte, come a Casa Guerra di Spagna, in altre situazioni, addirittura la RAI per il programma La Grande Storia ha mandato in onda un audio originale di Hitler, nel quale ovviamente faceva tutta una serie di complimenti a Mussolini senza aggiungere nulla, no? Così, senza proprio un minimo appunto critico o così, di puntualizzazione di quello che Hitler diceva, che ovviamente era propaganda e non era vero. Sì, sì, sì. è un momento molto triste, perché in questi giorni si dovrebbe pensare e celebrare nella maniera più sobria possibile questo 70° anniversario della liberazione, ma anche del ritorno all'Italia, alla Repubblica e a un regime democratico. E invece il servizio pubblico televisivo italiano ha fatto un lavoro indecente mandando in onda dei film importanti ma vecchi, eccetera, non facendo nulla di nuovo, non investendo nulla. L'altra sera addirittura ho visto il film premio Oscar La Ciociara, mandato in onda in 4/3, quindi Gubitosi e la Tarantola non hanno speso neanche 3.000 euro per rifare un telecinema in 16 noni di un capolavoro del cinema italiano. Questa è la situazione. Sì. Senti Giancarlo, tornando ai partigiani sull'Appennino, per avere maggiori informazioni sia su dove è possibile trovarlo, sia su insomma eventuali calendari di proiezioni, c'è un vostro riferimento internet? Sì, c'è un sito della nostra distribuzione che si chiama IMP Distribuzione, e il sottotitolo è La distribuzione di chi lotta per la libertà. Bene. Si trova su Facebook. Una cosa che non riguarda soltanto i partigiani, ma come sai mi occupo anche di Birmania, di Balcani, di Afghanistan, sì, e di altri paesi che hanno questa necessità. Devo anche aggiungere che sono rimasto molto colpito dal fatto che l'ANPI nazionale abbia vietato il corteo a Roma per il 25 aprile, adducendo queste questioni, queste polemiche con la comunità ebraica e con la questione della brigata ebraica. Ecco, per chi vuole interessarsi di queste problemi della brigata ebraica potrebbe anche vedersi il mio documentario Wars, che appunto parla di un personaggio della brigata ebraica che poi entrò nella Ghana, partecipò alla pulizia etnica dei palestinesi e così via dicendo. E io ho assistito, ho visto con i miei occhi l'anno scorso questi inarboruti di questa unità di autodifesa ebraica aggredire due ragazzini mingherlini, e sono dovuto intervenire per evitare che con i loro modi squadristici li mandassero all'ospedale. Quindi le aggressioni non partono certamente dai palestinesi, anzi proprio il contrario. Quindi secondo me l'ANPI ha fatto molto male ad agire come ha agito. Parlo dell'ANPI nazionale. Giancarlo, io ti ringrazio, ci hai dato una serie di informazioni anche sui tuoi lavori e ci risentiamo prossimamente. Grazie anche a voi e buon 25 aprile. A presto, buona liberazione, ciao. Bene, questo era Giancarlo Bocchi, regista del documentario Con i partigiani sull'Appennino, uscito il 21 aprile con libro e documentario. E con l'occasione continuiamo a parlare di resistenza, continuiamo a parlare di documentari usciti in uscita in questi giorni. Lo facciamo con Federico Spinetti, che mi ha fatto una sorpresa e quindi è qui in studio, essendo a Roma proprio per il giro di presentazione del suo lavoro, che è Il Nemico, un breviario partigiano che ha cominciato il suo tour in giro per l'Italia dal 18 aprile. Federico, tanto benvenuto a Grazie Visionari mille, su Radio Onda Rossa. Benvenuto proprio materialmente a Radio Onda Rossa. Faceva piacere essere nella sede di Onda Rossa, non c'ero mai stato, insomma, volevo prendere l'occasione. Allora, un lavoro molto interessante, l'ho subito voluto ospite per parlarne. Di cosa si tratta, Federico? Dunque, è un documentario prodotto, realizzato dalla Bottanta Film in collaborazione con i Post CSI, che ho diretto seguendo la storia artistica e personale di Massimo Zamboni, fondatore storico dei CSI, cercando di seguire un po' la sua storia familiare. Massimo aveva il nonno fascista, ucciso dai partigiani dai GAP in pianura, vicino a Reggio Emilia, e ha lui condotto una ricerca abbastanza molto approfondita sulla storia del nonno e sulle vicende che hanno portato all'uccisione e poi anche vicende che hanno seguito l'uccisione, insomma, di suo nonno. A me interessava andare a vedere questo nodo anche abbastanza scomodo, difficile, tra una memoria familiare legata al fascismo, il fascismo in casa, e un artista, un musicista che invece è storicamente antifascista. Mi interessava soprattutto come anche chiave per andare a vedere, a stanare qualche tema scomodo, non tanto della resistenza, ma della memoria della resistenza. Sono due cose un po' diverse. Cioè la resistenza, a mio avviso, non ha aspetti scomodi. Basta guardarla nel suo complesso con un po' di lucidità e si vede che, insomma, rimane il momento più alto eticamente, socialmente, umanamente della storia moderna d'Italia, almeno questo penso io. Poi sì, si è tentato di screditarla in vari modi, sì. Si continua a farlo, ma tutto sommato questo poi si riduce a poche cose, c'è poca ciccia, a chiacchiere sostanzialmente. Nella memoria invece che abbiamo della resistenza, penso che ci siano degli aspetti abbastanza difficili, cose che si fa ancora difficoltà a parlare, ad esempio questa, la conciliazione tra una memoria familiare, e questo va al di là del caso di Massimo, tantissime famiglie italiane hanno avuto a che fare più o meno intensamente, direttamente col fascismo, e una coscienza invece collettiva, politica, che è saldamente antifascista. Ci piaceva andare a vedere un po' come queste due cose vanno in cortocircuito, come si potrebbero anche mettere insieme, senza arrivare all'equiparazione politica, ma nello stesso tempo ammettere che si può anche avere affetto, compassione verso un nonno fascista che è morto durante la guerra, dal punto di vista umano, riappropriarsi di quella morte. Tutto sommato questa è soltanto una parafrasi di Cesare Pavese, che nel documentario anche c'è, ci sono varie frasi prese dalla Casa in Collina, questa idea che se siamo vivi lo dobbiamo a quel cadavere imbrattato. Le morti che hanno condotto alla liberazione sono tutte morti che, nolenti o volenti, sono state funzionali, importanti per arrivare a quel momento. Poi è tutto un altro discorso, ci siamo effettivamente liberati dal fascismo, questa è un'altra cosa. Un'altra cosa in parte, perché la volontà, credo, da parte di tutti, mia, dei collaboratori della Bottanta, di Massimo, è anche quella di dare il nostro contributo nel settantennale alla perpetuazione della memoria della resistenza, un piccolo contributo, ci sono tanti altri modi, questa era la volontà. Sì. Oh, materialmente, Federico, come ti sei mosso? Su cosa hai lavorato? Dunque, abbiamo lavorato seguendo la ricerca di Massimo, sì. Sulla che ha condotto anche pubblicando il libro L'eco di uno sparo, che è uscito con Einaudi poco tempo fa, seguendo la sua vita artistica, quindi ripercorrendo anche alcune tappe dai CCCP ai CSI e ai post-CSI, e poi nel corso dello sviluppo molto intenso di relazione con Massimo è venuta fuori l'idea di provare a vedere se anche gli altri post CSI erano interessati a continuare questo discorso sulla resistenza, e la cosa è stata tale per cui ci siamo riuniti al Teatro di Gualtieri, sto splendido teatro, il Teatro Sociale di Gualtieri, vicino la cittadina sul Po, per fare una 3 giorni intensissima in cui i post CSI hanno lavorato su una serie di pezzi, in particolare uno che si chiama Il Nemico. E quindi c'è un po' sia la storia del lavoro compositivo sul pezzo, sì, che è anche una storia di una collettività di artisti che non è che vadano sempre d'accordo tra di loro anche sul tema stesso della resistenza, e la storia privata di Massimo, che a mio avviso ha anche un valore abbastanza metaforico, se vuoi, simbolico, per vicende che sono successe in tante famiglie italiane. Quindi un po' cronaca quotidiana, un po' intervista anche? Sì, ci sono degli interventi, senz'altro, c'è molto nel film delle interazioni dei post CSI sulla composizione del pezzo, e ci sono anche varie esplorazioni di luoghi nella pianura emiliana di particolare importanza riguardo della resistenza, anche delle uccisioni di fascisti post liberazione, particolarmente nel paese di Campagnola nell'Emilia. Quindi insomma abbiamo sia interviste sia un documentario d'osservazione sul lavoro compositivo, sia un'esplorazione anche metaforica del paesaggio. Poi la musica diventa un po' l'ossatura portante di tutto, non tanto come alleggerimento, ma perché siamo andati proprio a cercare i pezzi dei CSI e dei post CSI che hanno proprio a che fare in ogni verso dei loro pezzi con la memoria della resistenza. Ci sono anche voci, testimonianze storiche di... Allora, no, perché questa è stata una scelta chiara fin dall'inizio. di non andare a fare un film sulle testimonianze. Okay. C'è niente di male con la testimonianza, ma quello che volevamo fare era proprio guardare alla memoria come ce la viviamo noi, come sì, ce la rappresentiamo sì, noi sì. oggi. Qual è il punto di vista emerso, visto come viene ricostruita oggi la memoria dai testimoni che hai potuto ascoltare? Che sono soprattutto i musicisti, ma poi abbiamo anche la collaborazione dello storico Massimo Storchi, di Mirko Zanoni dell'Istituto Cervi. Allora, quello che credo il film, io mi auguro, faccia è di chiarire che c'è una memoria molto solida. C'è anche un desiderio molto ardente di ricollegarsi al punto di riferimento della resistenza, per tutti i fascismi macro o microfascismi che comunque continuano a infestare la nostra società. Dall'altra, che ci sono una serie di temi che si fa ancora molto difficoltà ad affrontare, mm-hmm. come questo, quello della questione delle memorie private. C'è stata Alice Cucchetti su Cinerama, che mi piace citare perché ha parlato di questo film, dice: una questione privata collettiva. Cioè, parli di questioni private familiari che però hanno anche un valore collettivo. L'altro tema, forse un po' scomodo, è quello della violenza partigiana, che sempre, insomma, quando viene tirato fuori per screditare la resistenza. Abbiamo cercato di farlo in maniera abbastanza limpida, senza porsi troppi problemi, insomma, senza neanche calcare la mano. Quindi sì, continuità, ardente desiderio di ricollegarsi dai testimoni, dalle persone con cui abbiamo lavorato nel film, dei post CSI, anche la volontà di andare a guardare la resistenza con gli occhi limpidi, insomma, senza nascondere nulla, perché insomma non c'è niente da nascondere. Senti, le dinamiche di questo tour che sta attraversando l'Italia, come sono le tappe materialmente? Dunque, allora il film esce in sala in sì. varie città d'Italia. Okay. C'è stata la premiera a Bergamo, a Milano, ma adesso sta cominciando a viaggiare un po' per l'Italia. Distribuzione La Bottanta. Esce anche un digipack con il CD dei post CSI e il DVD del documentario, che verrà distribuito da Universal, a cui i CSI sono molto legati già da tempo, insomma, quindi insomma un'operazione anche abbastanza grande. Io non avrei mai immaginato, insomma, di fare un lavoro che avesse questo valore popolare, se vuoi, e fa molto piacere. E la tua presenza in queste tappe come funziona? Presenti il documentario? Ci sono anche altri contributi sì, dal vivo? Sì, allora i format poi dipendono un po'. Vado volentierissimo a presentare le proiezioni, spesso lo faccio, l'ho già fatto con Massimo, spesso anche in congiunzione con un suo reading musicale con pezzi nuovi e sue rielaborazioni di pezzi storici. Insomma, ci sono vari formati, siamo sempre disponibili ad andare a presentare il film molto volentieri. Un altro punto con cui vorrei chiudere è, per esempio, l'unione, la dialettica tra la musica, anche rock, anche musica popolare, e anche dei nostri giorni, e il suo rapporto con la memoria storica, e come la musica, anche il rock, racconta la resistenza. Sì, io so che sono un prof di etnomusicologia, quindi mi peschi la deformazione professionale. Io innanzitutto ho iniziato questo lavoro proprio da quell'ottica, cioè la musica che racconta la memoria. Ma la cosa bella della musica rock, ma che può essere anche hip hop, può essere certo. rap, qualsiasi, anche classica volendo, è che non è mai un messaggio univoco quello che la musica ti dà. È molto aperta all'interpretazione, l'interpretazione di chi l'ascolta e l'esperisce, ed è di per sé una forma democratica di arte, è una forma non autoritaria di arte, e smuove, evoca, e questo attiva anche dei livelli proprio di associazione con la memoria, con la resistenza, molto importanti, che non sono soltanto razionali, ma pescano proprio nella profondità di ognuno di noi individuo. Dunque, al di là del fatto che ovviamente il discorso storiografico e l'interpretazione, l'approfondimento storico sono molto importanti, secondo me l'arte, la musica, come altre arti, hanno moltissimo da offrire per la nostra coscienza storica, soprattutto perché attivano questi altri elementi emotivi. Bene. Oh, Fede, per i riferimenti internet, per saperne di più sulle tappe? Allora, sulle tappe, i riferimenti internet, senz'altro labottantafilm.it. dove ci sono, c'è tutto il calendario delle varie proiezioni, delle varie presentazioni. Speriamo di farne sempre di più, ma comunque mi sembra che ci sia una bella ricezione fino adesso. Bene, decisamente bene. Comunque sì. Allora, devo dire che ancora non l'ho visto, ma lo farò con piacere. Subito, adesso ce ne E quindi spero poi che avremo modo anche di parlare delle prossime novità. Insomma. Volentieri, grazie mille. Ciao. Dai, Fede, grazie. Buon 25 aprile. Auguri. Chiudiamo questo tris di documentari sulla Resistenza, visto anche che quest'anno sarà il 70° della Liberazione, con un lavoro che non avevamo in scaletta, però mi interessava. Ho avuto il comunicato proprio in mattina, tra ieri sera e stamattina, quindi volentieri ne parliamo. Un lavoro di Officine Video Indipendenti, il titolo è Santa Libera, agosto 1946, sarà programmato ad Asti domenica 26 aprile. Ci sei, pronto? Sono pronto, ci ecco sono. Sì. Attanto ben ritrovato. Per quanto riguarda questo lavoro di Officine Video Indipendenti, raccontiamo un po' di cosa si tratta. Bene, grazie a tutti. Dunque, si tratta la continuazione della ricerca che avevamo iniziato con la Volante Rossa, quindi dal 45 in poi cosa succede? Cosa succede in Italia? C'è la Liberazione, molti dei partigiani, soprattutto diciamo quelli di ispirazione comunista e anarchica, nella Resistenza vedevano la possibilità di un cambiamento profondo della società, della liberazione dallo sfruttamento, dalle miserie. Ecco, in questa situazione non vedono soddisfatte queste aspirazioni, questi obiettivi, e arriva insieme alla Liberazione, subito dopo la Liberazione, circa un anno dopo, l'amnistia di Togliatti e i fascisti tornano nei posti di lavoro, la polizia fascista ritorna a prendere alcune dei comandi e delle postazioni dove nel frattempo erano entrati i partigiani. Quindi in questa situazione, diciamo, di delusione, ma anche ancora di forza dovuta ai due anni di lotta partigiana, un gruppo di partigiani della zona di Asti, Cuneo, decidono, di fronte appunto alla sostituzione in un comando di polizia di un ex partigiano con un poliziotto, con una guardia della polizia africana, decidono di riprendere le armi e tornare in montagna. Sostanzialmente svaligiano la questura e tornano sui monti di Santa Libera, Santo Stefano Belbo, che era una zona dove già molti di loro avevano operato. E sostanzialmente il racconto è su questa situazione. Il film documentario è tratto dalla testimonianza di Giovanni Gerbi, che è uno dei partigiani, l'unico che è sopravvissuto, perché era un ragazzino quando, durante la Resistenza, lui si arruola, entra nella Resistenza a 14 anni fuggendo dal collegio insieme a suoi compagni di collegio, e a 14 anni entrano nella Stella Rossa, quindi una formazione partigiana di ispirazione comunista, dove erano presenti anche molti dei comunisti che erano stati in Spagna, che durante il fascismo hanno subito la galera, quindi insomma dove maturano matura un'idea di eguaglianza, di lotta contro il padrone. In questo contesto appunto tornano in montagna, interviene la polizia di Scelba, il governo. Ai tempi De Gasperi era a Parigi alle trattative di pace. Quel contesto lì, insomma, il partito si impegna e fa di tutto per farli rientrare, e quindi Giovanni Gerbi ci racconta ci racconta appunto quella settimana di rivolta, e ci racconta anche cosa succede successivamente, cosa succede dopo l'attentato a Togliatti, quindi l'organizzazione di volanti segrete, insomma, loro fino credo dopo il 48, il 49, loro aspettano il momento. Erano fiduciosi, era quasi tutta la base del Partito Comunista, però insomma, quindi il partito deve anche un po' faticare per farli rientrare nei ranghi. Ecco, questa il è la racconto storia. Si svolge in questo contesto. Sì. Senti, due cose volevo sapere. Di quanti partigiani stiamo parlando, perché per questa avventura di Santa Libera, e che effetti ha provocato quella settimana di insurrezione? Beh, ai tempi si parlava di migliaia, in realtà Giovanni ci dice poi alla fine, a conti fatti, eravamo 40 in montagna. Eravamo in 40, ma nello stesso momento, anche con la difficoltà delle comunicazioni all'epoca, insomma, molti partigiani, appena sanno questo, anche loro salgono, ma tutto il centro-nord è interessato da questa rivolta. Tutto il centro-nord è interessato da questa rivolta, ma non c'è un elemento di coordinamento, ecco, questo sicuramente manca, ma abbiamo rivolte, attacchi alle carceri di Novara, Biella, ancora fino credo al 50, insomma al 51, ancora c'è addirittura qualche carro armato nascosto nelle cascine, quindi il fenomeno di Santa Libera è un fenomeno sostanzialmente legato a una quarantina di partigiani, tutti quanti legati all'AMPI. Ma in quei mesi lì, in quei giorni lì, e poi successivamente in quei mesi, possiamo dire che così dalla Toscana alla Liguria fino a Piemonte, Lombardia, insomma è un fiorire di rivolte, di tentativi anche di dare una soluzione, anche di regolare qualche conto con i fascisti, con i padroni, con gli agrari, quindi diciamo è stata anche un po' per noi anche un po' una ricerca su quegli anni, perché poi dal 45 al 50 in realtà non c'è molto in giro, quello che c'era è stato abbastanza nascosto, perché di fronte così a un ragionamento sulla democrazia, sulla liberazione, in realtà quegli anni e quelle lotte ci dicono che una parte anche importante della resistenza, e non soltanto quella diciamo di matrice comunista o anarchica, in generale si trova mobilitata, vicina, spesso coinvolta in queste rivolte. Cosa hanno ottenuto, mi chiedevi? Sì, giusto? Quali sono stati gli effetti, insomma, di questa rivolta? Ecco, gli effetti, in realtà è stata stilata una lista, Giovanni ci dice che era poco più che una rivendicazione, furono costretti diciamo a volgerla verso una rivendicazione quasi sindacale, quindi insomma, riconoscimento dei gradi partigiani con quelli dell'esercito, ripagare i contadini che durante la resistenza avevano avuto degli espropri, erano stati, come dire, avevano sostenuto la resistenza, quindi si trattava di riconoscergli questo sforzo. È chiaro che al centro di quella rivolta c'era l'amnistia di Togliatti, ecco. Questa era al centro, e questa chiaramente non è stata toccata, per cui vengono convinti a scendere, che si era risolto tutto, vengono invitati a Roma con Nenni, ma di fatto qualcuno fu pure costretto a fuggire, insomma, gli viene organizzato un palco, una grande festa in cui i partigiani tornavano, ma come dire, viva i partigiani, ma i partigiani che sono scesi, questo è il discorso che ci fa Giovanni. Senti, in chiusura ci dai qualche indicazione in rete per saperne di più, per reperire qualche informazione, ma anche un eventuale calendario di proiezioni su Santa Libera? Ma guarda, noi siamo, questa sera finiamo ancora dei passaggi di montaggio e domenica lo proietteremo, quindi siamo ancora in questa situazione. E, però avete un vostro quindi, luogo? Quindi per ora non abbiamo un calendario, abbiamo trovato questo momento perché ad Asti ci sono una serie di iniziative in cui sarà presente anche Giovanni Gerbi e ci piaceva, insomma, per noi era importante in questo momento qui proiettarlo. Bene, bene. Credo che da maggio in poi possiamo un po' anche avere più chiaro come farlo circolare. Insomma, per ora la circolazione dei nostri lavori sono stati attraverso centri sociali, associazioni. Sì, sì. Comunque c'è un vostro luogo, Officine Video Indipendenti, in rete? In rete abbiamo, sì, abbiamo il profilo Facebook, okay. Abbiamo già un trailer della Volante Rossa, ecco, okay. verrà prodotto un piccolo trailer da mettere su YouTube. Bene, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Ringrazio a te Federico, ciao a tutti e buona giornata. Buona liberazione, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo per quanto riguarda Officine Video Indipendenti, che sono autrici del documentario Santa Libera, agosto 1946, prima proiezione domenica 26 aprile ad Asti. Parliamo ancora di documentari con Paolo Geremei, regista del documentario 0 a 0, che abbiamo già avuto ospite qualche mese fa in occasione della proiezione al Teatro Valle Occupato. Questa volta lo farà, la proiezione sarà via etere, cioè via televisione, perché lo programmerà Rai 3 venerdì sera. Paolo, intanto benvenuto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buonasera, ben trovati, grazie intanto dell'invito. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente spieghiamo cos'è questo 0 a 0. 0 a 0 è un documentario che racconta le storie di tre ragazzi, tre giovani fenomeni del calcio italiano, Marco Caterini, Andrea Giulio Capponi e Daniele Rossi, che hanno giocato nelle giovanili della Roma e dell'Italia anche per 15, under 17, under 19, e che poi per differenti motivi non ce l'hanno fatta a coronare il loro sogno. E quindi racconta un'avventura sportiva umana che dagli albori, perché i ragazzi sono del 77, quindi dagli albori anni 80, quando facevano i Pulcini, gli esordienti, giovanissimi, fino a sfiorare, fino a fare da Madrid a Roma, fino a giocare a Wembley e poi averci una vita normale come le nostre normalissime vite. E quindi racconto di un'avventura, diciamo, sportiva e umana. Mm-hmm. Spesso in queste in questo cosmo che ruota intorno al calcio giovanile hanno un grosso peso non solo le aspettative dei ragazzi, ma soprattutto quelle delle famiglie, che hanno una forte influenza. Esatto, infatti per me una caratteristica imprescindibile proprio del documentario, prima di intervistare loro, veramente è stata quella di intervistare i genitori, perché io volevo proprio capire, ero veramente incuriosito dal fatto di quanto conta l'interesse, diciamo, del genitore verso il successo, tra virgolette, del figlio, e soprattutto come fare in modo che questa aspettativa del genitore, anche qualora venisse tradita, non si ripercuotesse troppo sul ragazzo. E quindi il punto di vista dei genitori per me è fondamentale. E dopo averne intervistati tre, perché sono tre protagonisti del documentario ed ho intervistato un genitore al ragazzo protagonista, dopo averne intervistati tre ti dico che in realtà non so neanche quale dovrebbe essere la soluzione se io un giorno dovessi avere un figlio molto talentuoso in qualunque campo, se fargli sentire, se spingerlo, se fare in modo di volare comunque basso, se fargli in modo invece di essere determinato e comportarsi come se quella fosse per lui l'unica strada percorribile. E mi sono reso conto che è un mestiere molto difficile quello di genitore, comunque sia. Nel caso in cui c'è un figlio molto talentuoso è ancora più difficile, perché anche gli sbagli, le sfumature, tutto viene amplificato, perché poi hai paura che porti chissà quali conseguenze. Quindi insomma, beh, di certo hanno un'importanza fondamentale, questa è una banalità, nell'educazione dei ragazzi. Nel caso di talenti è ancora più importante, diciamo. Sì. Beh, non secondario il fatto che nel mondo del calcio girano parecchi soldi rispetto magari ad altri talenti, quindi è anche conseguenziale forse questa questo peso di aspettative delle famiglie, soprattutto per le fasce popolari, no? Sì, è importante per tutti, ma ti dico, oltre al fatto economico, secondo me è proprio il fatto proprio di vedere il proprio figlio realizzato in quello che tu sai che è nato per. Molte, ci sono dei protagonisti italiani in cui dice io sono nato per, ma soprattutto è il mio modo di esprimermi, cioè io come i piedi mi esprimo, c'è chi si esprime con le parole, chi disegna, chi fa altri lavori, io mi esprimo con i piedi. E quindi quando vedi che tuo figlio non si riesce a esprimere con i piedi, è più quella la sofferenza, secondo me, che non il fatto del mancato guadagno, che è ovvio che insomma tutti potremmo essere più ricchi di quanto siamo, però è anche il fatto proprio della delusione, un fatto anche molto umano e comprensibile, ovviamente. Poi è chiaro che se tu pensi a quanto guadagniamo noi, pensi quanto guadagna un qualunque giocatore di Serie B, è ovvio che insomma ci resti un po' male. Sì, diciamo. Sì, sì. Paolo, il clima del documentario ha una nota sicuramente malinconica, però tutti e tre i protagonisti con sofferenza e anche con tentativi ed errori hanno trovato un proprio spazio, una propria realizzazione alternativa poi nella vita. Sì, sì, certo, in ognuno dei tre allena o ha allenato, perché comunque il calcio ti resta dentro, e quindi poter insegnare agli altri quello che tu hai imparato per una vita è stato un bellissimo modo da parte loro di trarre vantaggio da quella che è stata la loro vita appunto sportiva per tanti anni. Quindi sono dei grandissimi allenatori e quindi educatori. Poi sono realizzati, perché ognuno dei tre, insomma, un professionista affermato, quindi sono anche realizzati, si sono rilassati, e questo fa di loro, secondo me, di personaggi ancora più forti, perché si sono rialzati quando insomma stavano in vetta, e la vetta non era una vetta media, insomma non era una grande collina, era proprio una montagna, e quindi cadere dalla montagna fa male. Poi la forza per rialzarsi l'hanno trovata, e ti ripeto, questo fa, secondo me, dei personaggi bellissimi, e la cui forza, la cui intensità, la cui profondità ha fatto sì che il documentario, che nasce semplicemente come un documentario di indagine, di inchiesta e di svelamento della realtà, in realtà però si sia rivelato invece come un film, quasi un film di cinema, quasi un film di fiction, quasi un film veramente con dei personaggi disegnati, ma di una profondità e di uno spessore incredibile. E tuttora, che sono insomma 2 anni che l'abbiamo, che è stato di festival, ma 3 e passa che l'abbiamo girato, ora noi ci sentiamo quasi tutti i giorni, perché io ho trovato veramente delle persone fantastiche, degli amici, e questo non lo dico tanto per dire, perché mi sono tenuto a dirlo, ma è veramente così, delle persone che forse la vita con la sofferenza ha reso più forti di quanto sarebbero stati se magari chissà arrivavano chissà dove. Sì, sì, sì. Paolo, in chiusura ci dai dei riferimenti internet per 00 e ricordiamo anche l'appuntamento su Rai 3? L'appuntamento su Rai 3 è domani, cioè venerdì alle ore 23 su Rai 3, e soprattutto A Posto di Sfide, che è il godimento più grande questo, quindi venerdì 24 aprile alle ore 23:00 su Rai 3. Riferimenti al sito, se andate sul mio sito paologeremei.com ci sono tutti i vari riferimenti al film. Benissimo, t'abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, e alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao, grazie. Paolo Geremei, regista del documentario 00. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Ritroviamo Anastasia Plazzotta di Wanted sulla distribuzione del documentario Il figlio di Hamas, The Green Priest, in uscita in sala oggi giovedì 23 aprile. Anastasia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao, spero mi sentiate, perché sono in movimento. Al momento ti sentiamo, quindi speriamo bene. Allora, raccontiamo un po' a chi ha l'ascolto Il figlio di Hamas, The Green Prince. Brevemente, è una storia, ovviamente una storia vera, che per specifico sia vera perché ha veramente dell'incredibile. È un giovane palestinese, Mossad Hassan Youssef, a un certo punto della sua vita viene messo mette in discussione il padre, che è un grande leader spirituale di Hamas, e Hamas stesso mette in discussione al punto di decidere di farsi reclutare da un abile agente israeliano dello Shin Bet, e decide di passare dall'altra parte, quindi di diventare una talpa, una spia dello Shin Bet, contrario alla violenza che ha visto principalmente in carcere. In carcere si lascia sedurre da Gonen e fin quindi segue, in qualche modo racconta le testimonianze sue e dell'israeliano che tracciano e seguono la storia incredibile di questo giovane che in qualche modo riesce a far arrestare il padre, e anche tutti si mette in discussione, ovviamente si sente un traditore, una spia, che quindi c'è anche un po' di tormento psicologico di questo palestinese. Il regista israeliano ha cercato di rimanere molto sulla storia, quello che lo affascinava era il rapporto tra questi due, il rapporto che in qualche modo si è sviluppato, è diventato non solo di collaborazione ma quasi di amicizia. Quello che ha affascinato Nadav Shirman è proprio il coraggio, diciamo, di ribellarsi anche al padre, di fare una scelta importante e la forza che ha unito questi due personaggi, pur essendo nemici giurati, un israeliano e un palestinese, che però nel corso del film diventano, direi, amici solidali, cresce tra di loro un'amicizia. Questo film è basato su un libro, un'autobiografia che è uscita in varie parti del mondo, anche da noi in Italia per Gremese, e ho letto di recente diventerà presto anche un film di finzione, perché effettivamente è una storia piena di colpi di scena, in qualche modo, che sembra proprio scritta da uno sceneggiatore, tutto. E cioè, questo è anche quello che ha cercato di riprodurre anche il regista, mettendo in scena alcune non sono solo testimonianze, non sono solo interviste, ma c'è anche un momento di ricostruzione, di finzione vera e propria, infatti è più una sorta di docudrama, se volete, più che un vero e proprio documentario. Ci sono degli inserti di finzione, c'è cioè un montaggio molto thriller in qualche modo, che cerca di riprodurre un po' dei meccanismi narrativi della finzione. Sì. Con l'obiettivo di anche coinvolgere un pubblico più ampio, fondamentalmente, e di tenere un po' la tensione alta, perché il film comunque è abbastanza lungo, insomma, e poi essendo basato su no, parole, testimonianze, era difficile mantenere alta la tensione. Sì, tra l'altro un pubblico tra l'altro che ha gradito, perché insomma ha vinto proprio il premio del pubblico al Sundance Film Festival. Sì, esatto. Sì. Io, come ti dicevo, Anastasia, volevo sicuramente pecca un po' di parzialità, ma anche probabilmente ha anche un senso tutto questo, soprattutto per parlare, per mettere in luce le dinamiche di queste due psicologie. Parla della stagione delle bombe umane nel 2001, però no, chiaramente non fa vedere anche le azioni dell'esercito occupante israeliano, ed è una storia incredibile perché appunto riguarda il figlio del leader spirituale a Ramallah, che tra l'altro è stato 16 anni detenuto nelle carceri israeliane, e nonostante questo, una cosa per esempio bella che mi è piaciuta del racconto di suo figlio è che a lui non ha insegnato l'odio, ma lui è stato arrestato, il figlio è stato arrestato appena 17enne, quindi minorenne, e quest'odio lo ha sviluppato da solo per il nemico, ed ha accettato, dopo essere stato alcune settimane detenuto, quindi anche torturato, nonostante fosse anche minorenne, ha accettato poi di diventare informatore, e con l'obiettivo però di essere liberato al più presto dalle carceri e preparare una sua personale vendetta. In tutto questo, poi, tutto il periodo trascorso, si parla di una decina di anni, ha sviluppato un proprio codice morale che non era né legato all'ottica di Hamas né a quella di Israele, che Israele e i servizi segreti lo volevano lo avrebbero voluto religioso ed estremista, invece lui ha rifiutato poi la logica del sangue chiama sangue, anche perché insomma la dimostrazione di forza è nelle cose, insomma, dell'esercito israeliano, che è il primo esercito del mondo. È interessante anche il rapporto che sviluppano tra di loro. Stiamo parlando poi anche del reclutatore che era il responsabile delle operazioni militari in Cisgiordania, quindi anche un pezzo molto importante dei servizi segreti, che andava contro però spesso le regole del servizio segreto in questa sua operazione. E qual è l'effetto? Lui viene licenziato e questo giovane viene ripudiato poi dalla famiglia, dall'intera comunità, e se ne va negli Stati Uniti. Altro elemento sorprendente è che a detta di questo reclutatore dei servizi segreti israeliani, quella dello Shin Bet era la più importante operazione segreta dei servizi segreti. Lui fa il paragone, è come se diventasse informatore il figlio del premier israeliano, insomma, per contro. E in tutto questo, nonostante l'importanza di questa operazione, lui rende pubblico tutto con un libro che poi esce negli Stati Uniti. Non ho capito purtroppo tutto, ma l'ultima parte ti ho riagganciato e vi ho sentito. Okay. Sì, è tutto esatto, un libro che è stato distribuito, e tra l'altro appunto anche in Italia, adesso uscirà anche con la copertina, proprio con una copertina nuova che riprodurrà il poster del film, quindi c'è una nuova edizione in uscita in questi giorni del libro. Anastasia, tra l'altro è la prima volta che noi ci sentiamo dall'inizio di questa avventura Wanted, questa nuova avventura distributiva. Ce ne parli un po'? Sì, molto volentieri, è una nuova creatura, un po' coraggiosa di questi tempi, ma ci piace fare le cose rischiose, nel senso che l'obiettivo è sempre cercare di portare in Italia dei contenuti, insomma, inediti, che sempre facciano parlare, che non lasciano indifferenti in qualche modo, insomma, delle cose un po' azzardate, se vuoi, rispetto alle ottiche, no? delle scelte più commerciali, insomma, una cosa, cose un po' più di nicchia sicuramente, che facciano discutere, che creino un po' del dibattito, quando si accendono le luci dopo lo spettacolo, lasciano, ti facciano un po', ti facciano sentire un po' diverso, ecco, in qualche modo. Quindi insomma quasi tutti saranno film documentari principalmente, cioè l'obiettivo è proprio continuare un po' la linea che continua, io l'ho fatto Real Cinema, no, di Feltrinelli, quindi continuo a lavorare, a seguire anche quella parte di DVD. Insomma, cerco di, ovviamente la mia esperienza nel documentario la riverso in questa nuova avventura, che appunto è Wanted, cinema ricercato, ma nelle varie accezioni del termine. L'idea è anche che sia un cinema di ricerca, un cinema un po' borderline, anche un po' fuori legge, e anche ricercato nel senso che ovviamente la cura e la qualità del prodotto, tra virgolette, è sempre importantissima, imprescindibile. Sì. Vi posso fare delle brevissime anticipazioni, uno dei prossimi titoli che usciranno sarà Fine in Fela, il documentario su Fela Kuti, che è girato da Alex Kipling, il premio Oscar, che perché ha lavorato con il film in passato, e poi Siriamo, che è stato presentato a Cannes l'anno scorso, molto duro, che si chiama Eau Enchanté o Silver Water, sulla Siria, che viene girato con dei telefonini, una documentazione calda di pancia dalla piazza, che racconta la violenza in modo piuttosto diretto e lascia un po' scioccati quelli che non hanno occasione di vederlo, nel senso che è molto crudo, molto, molto duro. Questi sono i prossimi. Poi avremo anche un momento un po' più frivolo tra le teste, usciremo anche assieme a The Space con un documentario su Dior, che si intitola Radio R&I, sarà un grande evento il 3 di giugno in una settantina di sale in tutta Italia, un evento unico. Anche questo però molto, molto ricercato, nel senso che è un viaggio dietro le quinte di Dior, cioè il lavoro che c'è. L'abbiamo persa. Comunque si trattava di Anastasia Plazzotta di Wanted sulla distribuzione del documentario docufilm Il figlio di Hamas, The Green Prince, in uscita in sala oggi giovedì 23 aprile. Eccoci con Emanuela Piovano di Kitchen Film sulla distribuzione del documentario Scuola di Babele con la Q in uscita in sala anche questo oggi giovedì 23 aprile. Emanuela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, benvenuti a voi. Raccontiamo questo documentario, Emanuela. Sì, ma è un documentario che è praticamente un film, perché l'intensità della partecipazione della regista è tale per cui questi personaggi veramente sono dei protagonisti. Lei ci tiene a dire che è un film fatto con questi ragazzi e non sui ragazzi. È una camera veramente molto partecipata, molto intensa, molto emozionante, e quindi innanzitutto di questa nuova scuola di documentari che sono dei veri propri film. Anzi, se lo paragoniamo alla classe di Canté, di cui si è parlato anche in conferenza stampa, che era la famosa Palma d'Oro sulla maestro che insegnava in questa classe per stranieri, sembrava più un documentario quello, che invece era rigorosamente di fiction, perché era comunque estremamente duro, distaccato. Invece questo, Scuola di Babele, è estremamente articolato, emozionante, insomma sembra una finzione, ma naturalmente invece è una verità, ecco, quindi ha degli spunti anche molto drammatici, nel senso che vengono fuori queste storie molto intense di persone, di figli di persone appena immigrate, o anche di immigrazione più antica, quindi di già nati magari lì, che però hanno bisogno di fare questo passaggio scolastico per potersi poi integrati nella scuola normale. Sì. E quindi questo è anche molto affascinante, perché l'adolescenza di per sé è sempre anche un'età di immigrati, no? Anche quando uno è nato e vissuto con fino alla terza generazione nella stessa patria, quando è adolescente è sempre un po' un emigrante, quindi anche da questo punto di vista a noi è piaciuto molto questo docufilm, proprio perché parla di un'età anche un'età molto complessa, ecco, che è quella dell'adolescenza. Sicuramente uno dei punti, degli elementi più toccanti è questa loro disponibilità umana, perché poi alla fine nel corso di questo di questa avventura scolastica sviluppano un legame sia tra loro che con i docenti. Sì, sì, c'è questa maestra che davvero, tra l'altro, è veramente esemplare, perché anche lì è una maestra che non insegna, non sta in cattedra, ma è veramente senza retorica, però, perché è anche una persona severa che cerca di ottenere il massimo dai suoi allievi, però una figura anche molto inedita nel cinema dei vari maestri, perché è una figura appunto praticamente tra le quinte, in sordina, quasi mai inquadrata, però che in realtà opera una vera e propria regia nel cercare di mettere insieme queste persone che hanno religioni, contesti, famiglie, ceti sociali completamente diversi tra di loro. Senti, e sulla Bertuccelli che hai avuto modo di incontrare, che impressioni hai avuto? Ma a me è piaciuta molto perché intanto è lei che ha preso in mano la macchina da presa e ha girato, e quindi già questo la mette tra le persone che, diciamo, in qualche modo io dico, se ne scrivono un po' col sangue, no? Che ci mettono non la faccia, perché non fanno le attrici, però ci mettono il loro corpo, non stanno anche loro in cattedra a dare gli ordini, e già questo la rende molto. Lei tra l'altro è figlia di uno storico regista francese, Bertuccelli, degli anni 70, prematuramente scomparso, ed è stata per tanti anni anche l'assistente di Otario Segliani, quindi per esempio ha fatto un paio di film di finzione molto ben accolti dalla critica e dal pubblico. In particolare, forse gli ascoltatori lo ricorderanno, era Da quando Otar è partito, quel delizioso, la deliziosa fiaba su quella vecchietta sperduta nel bosco che rimane da sola, e quindi anche da questo punto di vista il suo impegno nel documentario, che per lei ovviamente non è una non è un altro settore, non è un altro campo, ma è una fonte di stimolo, e ambienti si intercomunicano tra di loro, quindi lei trae spunto dai documentari che fa e poi dai film, c'è un doppio binario, insomma, di creatività e di ricerca che ce la rende molto molto simpatica, secondo me molto attuale, anche perché anche lì un po' il futuro, come diceva Alexandra Struck, non so se ricorda la camera stilò, no? All'inizio del Novecento diceva il futuro del cinema sarà poi come quello della Biro, no? Si prenderanno gli appunti in realtà con complesse strutture tecnologiche, e invece la Bertuccelli appunto ci ricorda che queste complesse strutture tecnologiche oggi permettono anche un approccio veramente molto semplice, immediato, però che non vuol dire superficiale. Sì, sì, sì. E quindi lei in questa classe si è recata intanto per più di un anno, una volta a settimana, ha vissuto con loro, è stata con loro, soltanto con una troupe costituita da un operatore del suono. Mm-hmm. E invece tutte le riprese sono sue, e quindi questo anche crea nel film un rapporto veramente molto molto bello, molto corporale, molto fisico con gli interpreti. E poi un'altra cosa molto bella che i francesi ci ricordano sempre più di noi è che c'è una mission del regista, no, di cinema, che non è quello della televisione, senza nulla togliere all'uno all'altro, però lei diceva spesso questi giovani interpreti, giovani osservati, ogni tanto avevano voglia di esibirsi davanti alla macchina da presa, facevano delle cose, e quelle volte lì io distoglievo, staccavo la macchina, perché non siamo mica la televisione, quando stiamo facendo ricerca non stiamo facendo spettacolo. E questo è bello, perché poi in realtà viene in realtà uno spettacolo straordinario, perché il film è spettacolare nei suoi piccoli affetti, nelle sue piccole costruzioni di relazioni intime, molto molto molto affettive, quindi è assolutamente spettacolo, però certamente è uno spettacolo molto più raffinato, molto più sentito, molto più partecipe, che non ovviamente la messa in scena così di chi si esibisce perché è esibizionista, insomma. Questa differenza, che può essere anche molto polemica, molto di parte, molto sulle barricate, è una differenza che sembrava un po' nelle nuove generazioni perduta, e invece la Bertuccelli ce la ricorda con enfasi, con convinzione, ce l'ha ricordata nelle conferenze stampa, e questo atteggiamento un po' militante ci è piaciuto moltissimo. Emanuela, in chiusura ci dai anche i riferimenti di Kitchen Film per saperne di più sulla vostra attività? Sì, sai che non ho sentito però. I riferimenti internet di Kitchen Film. Ah certo, www.kitchenfilm, scritto come cucina in inglese, quindi K, Imola, Torino, Como, Tele, Empoli, Napoli, film.com. Benissimo. O punto eu. Anche. Emanuela, in bocca al lupo. Siamo anche su Facebook, c'è Siria Calderone che è la nostra regista di Facebook, e quindi mi raccomando, fatevi vivi e soprattutto andate al cinema, ecco, da oggi al Lux, questa multisala molto bella, fermata Annibaliano B1 per i romani. Allora io ti dico un in bocca al lupo, un abbraccio, a risentirci per le novità. Creti, grazie a voi. Ciao Emanuela. Buone visioni. Ciao. Emanuela Piovano di Kitchen Film sulla distribuzione del documentario Scuola di Babele, in uscita in sala oggi giovedì 23 aprile. Altro dei lavori in uscita oggi è Road 47, ne parliamo con Daniele Mazzocca, che ne è produttore. Daniele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Evviva, grazie, ciao, un saluto a tutti. Senti, una storia molto curiosa e più poco più che conosciuta, io non neanche ne sapevo l'esistenza. Raccontaci un po' cos'è. Sì, storia poco conosciuta in verità. Parliamo di Road 47 di Vicenci Ferrais, film coproduzione tra Italia, Brasile e Portogallo, che racconta la storia della partecipazione brasiliana alla Seconda Guerra Mondiale. Nessuno sa in Italia, o pochissimi ricordano, che tra gli alleati di mezzo mondo c'erano anche 25.000 brasiliani, che non abbiamo risparmiato, li abbiamo ovviamente mandati a ridosso della linea gotica, diciamo, a combattere e a rincorrere i nazifascisti tedeschi. Una delle battute del film è del tedesco che dice siamo in guerra addirittura con il Brasile, lui che è praticamente quasi un disertore, almeno si presenta così ai brasiliani che lo catturano. Sì, è vero, pensate, addirittura è un aneddoto, ma dà l'idea diciamo un po' della portata di tutto questo. Radio Berlino quando i tedeschi seppero dell'arrivo dei brasiliani, Radio Berlino trasmise un comunicato dicendo: attenzione camerati, è in arrivo un nuovo alleato da un paese lontano che si chiama Brasile, la maggior parte di questa popolazione è aborigena, praticano ancora il cannibalismo. Quindi vi rendete conto, insomma, che era poco nota a tutti, anche in quegli anni, insomma, la discesa in campo in qualche modo del Brasile in guerra. In Italia è ricordata soprattutto nelle zone dell'Emilia Romagna e della Toscana, cioè soprattutto in quelle zone dove i brasiliani hanno effettivamente liberato dei paesi, delle città, pensiamo a Pistoia, alle province di Modena, Porretta, Caggio Montano, a Zocca, no? Sì. Quindi abbiamo sul territorio in Italia dei luoghi in cui la memoria dei brasiliani nella seconda guerra è ancora forte, ma in realtà in grandissima parte del paese nessuno lo sa. E a questo punto ti chiedo anche come sei rimasto coinvolto in questo progetto, Daniele. Non ti sento, perdonami. Come sei rimasto coinvolto in questo progetto? Ma in verità noi lavoriamo tanto con il Brasile e con l'America Latina, avevamo già portato Bechis in Brasile con La Terra degli Uomini Rossi, poi forse qualche ascoltatore ricorderà il nostro gioiellino che era il Mundial Dimenticato, girato in Argentina, in Patagonia. Come no, certo. E diciamo 3-4 anni fa i produttori brasiliani mi proposero una prima azione di sviluppo su questo progetto. Il titolo provvisorio era ancora La Montagna, non si chiamava Road 47, e noi di buon grado siamo entrati in sviluppo con loro sul progetto, e devo dire che senza grandi difficoltà, per una volta, sia il Ministero dei Beni Culturali che il Friuli Venezia Giulia ci hanno sostenuto immediatamente nel costruire l'architettura finanziaria italiana della produzione. E poi nel corso del tempo è entrato anche il Portogallo, quindi diciamo che è un film che nasce in Brasile, su cui noi italiani siamo diventati presto i coproduttori italiani, e a cui poi si è aggregato anche il Portogallo, in realtà anche con delle altre realtà importanti europee come il Fondo Luso Brasiliano e come il Fondo Ibermedia, che voi sapete ovviamente è un punto di incontro tra l'America Latina e l'Europa. Come vi siete mossi per la distribuzione, Daniele? Per la distribuzione? Sì. Per la distribuzione, premesso che diciamo in Italia rimane in qualche modo, tra virgolette, diciamo così, un piccolo film, pur essendo un film che ha un budget molto molto impegnativo, perché sfioriamo i 3,5 milioni, quindi diciamo non è quello che noi chiamiamo normalmente un low budget, insomma. Circa 3 mesi fa siamo stati in qualche modo selezionati dal comitato dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha riconosciuto il film diciamo all'interno del programma ufficiale delle celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazione, e quindi per noi è stato abbastanza naturale trovare nell'Istituto Luce in Cinecittà il distributore del film, perché questo distributore in modo particolare, al di là di essere poi anche, come dire, il gestore dei grandi archivi del Luce e quindi di avere una pertinenza sui temi storici, però diciamo che su film di interesse culturale come questi ha mostrato immediatamente senza esitazione un interesse, quindi lo portiamo in sala con l'Istituto Luce Cinecittà. Iniziamo adesso e siamo in tour in questo momento, io vi chiamo dall'autostrada Milano-Firenze per intenderci, cioè, insomma stiamo chiacchierando ma noi siamo in viaggio. Questa settimana siamo dedicati agli eventi in qualche modo, cioè a delle anteprime, a delle premiere con il regista, con Vicenci, che è arrivato da Rio de Janeiro per presentare il film in una serie di città. Questa sera tra l'altro saremo a Firenze allo Spazio Alfieri, e poi diciamo che formalmente con oggi il film entra in distribuzione, quindi diciamo non proprio in tutte le città italiane, perché abbiamo una tiratura piccolina, insomma stiamo parlando di 20-30 copie per iniziare, però diciamo inizia qui la sua vita, e non c'era occasione migliore del 70° anniversario della Liberazione per far vivere il film in Italia e proporlo al pubblico e agli spettatori italiani. Daniele, io ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo per le novità future. Io ringrazio voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e ricordatevi, Road 47 in sala, Vicenci Ferraz, regista, con Sergio Rubini, non perdetelo. Ciao ciao. Ciao, un abbraccio, ciao. Daniele Mazzocca, produttore del film Road 47, in uscita in sala oggi giovedì 23 aprile. Anche quest'anno parliamo del Far East Film Festival ad Udine dal 23 aprile, da oggi quindi fino al 2 maggio, 17ª edizione. Non ne parliamo con Sabrina Baracetti come ogni anno, ma con Ippolita Nigris. Ci sei, Ippolita? Sì, ci sono. Ciao. Benvenuta. Ciao a tutti Visionari. I radioascoltatori. Allora, raccontaci un po' di questa edizione. Allora, guarda, questa è l'edizione 17, siamo giunti al numero 17, che è un numero abbastanza particolare, però insomma siamo molto fiduciosi perché insomma per il momento noi abbiamo messo insieme un programma molto fortunato al di là di questo numero. E questa 17ª edizione inaugura questa sera in una maniera molto particolare, perché appunto c'è un evento speciale che vede protagonista il maestro Joe Isaias, compositore appunto delle musiche bellissime dei film di Miyazaki, dei film di Takeshi Kitano, del film di Parchus, non so se lo ricordate, il film che ha vinto giapponese, di produzione giapponese, che ha vinto appunto l'Oscar nel 2010 con miglior film straniero. È un personaggione, gli abbiamo chiesto di venire a Udine, lui ha accolto questa nostra richiesta e stasera dirigerà 80 elementi dell'orchestra sinfonica slovena, dove appunto presenterà un repertorio con le musiche più belle dei film appunto per cui ha scritto le musiche, e anche altri brani da lui composti non per il cinema ma composti appunto per la musica contemporanea. Quindi insomma è un evento molto speciale, una data unica in Italia stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La risposta del pubblico è stata fantastica, perché abbiamo venduto tutti i biglietti in pochissimi giorni, anzi in pochissime ore, perché effettivamente non abbiamo avuto neanche due giorni che i biglietti erano già tutti appunto venduti, quindi c'è stata una grande risposta. Siamo pronti a una grande serata dedicata alla musica questa sera, per inaugurare in modo speciale questa edizione del festival. Domani invece appunto, come da copione, avremo il film di apertura, che è appunto una super produzione, coproduzione Cina-Hong Kong, firmata dal regista Daniel Lee, che ha come protagonisti Jackie Chan insieme a John Cusack e Adrien Brody, quindi insomma è un super filmone appunto che vede anche star hollywoodiane come interpreti. Il titolo è Dragon Blade, la storia è molto interessante, racconta appunto di una legione romana sperduta nelle vie della Cina, quindi questo incontro poi fra romani e appunto popolazione cinese di quei luoghi. E poi andiamo avanti appunto con un film in seconda serata domani sera, e poi da sabato a sabato prossimo, quindi 2 maggio, presenteremo appunto i 71 film che abbiamo quest'anno nella selezione 2015, provenienti da 11 cinematografie dell'Estremo Oriente. Ve le cito velocemente, sì. Saranno film di Hong Kong, Giappone, Cina, Corea del Sud, Singapore, Filippine, Taiwan, Thailandia, Indonesia, Vietnam, e quest'anno per la prima volta abbiamo ospite la Cambogia, quindi presenteremo un film cambogiano di una giovanissima regista donna cambogiana, un film molto carino, si intitola The Last Reel, racconta, parla della storia del cinema in Cambogia, quindi è molto legato anche alla storia poi della Cambogia in sé. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino al Teatro Giovanni da Udine, vanno avanti fino alla sera. Quest'anno abbiamo ripristinato anche la sezione di mezzanotte, diciamo, dove presenteremo una rassegna particolarissima, perché appunto in collaborazione con lo Stiges Festival, che è un festival appunto spagnolo, abbiamo selezionato dei titoli, sono registi europei che parlano o ambientano la loro storia nel lontano Oriente, quindi insomma un messaggio che un po' rinforza quella che è la missione del nostro festival, quindi di far incontrare Oriente e Occidente. Insieme ai film, come tu saprai, ormai abbiamo un festival dentro al festival, ci sono tutta una serie di eventi e attività collaterali che animano la città per tutti i 9 giorni, con appunto esibizioni, mostre, wellness, perché appunto c'è anche la possibilità di provare alcune forme terapeutiche orientali, tutto dedicato comunque al lontano Oriente, per dare la possibilità appunto agli spettatori dei film anche di farsi una passeggiata in città e di poter conoscere alcune discipline orientali un po' più da vicino, sperimentarle, vederle e godere anche solo della visione di una performance di danze tradizionali orientali o appunto di arti marziali. Il programma è molto molto ricco, perché appunto 71 film sono parecchi. Per avere appunto un'idea sugli orari e sui giorni, ma anche un po' sul percorso che uno poi si va a creare per seguire il festival, io consiglio a tutti di andare sul sito www.farisfilm.com, dove si trova appunto tutto il programma con le trame dei film. Ce n'è veramente per tutti i gusti, andiamo dai noir, dai gialli, alle commedie romantiche, alle commedie proprio in sé per sé, ai film in costume, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Ippolita, sei stata esaustiva, io ti ringrazio, un in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Un abbraccio, a presto, ciao. Ciao. Ippolita Nigris per la 17ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 23 aprile, oggi quindi, fino al 2 maggio. E dopo un po' di tempo ritroviamo anche Raffaele Brunetti, questa volta come regista del documentario Zero Waste, che sarà proiettato qui a Roma, a Sentieri Selvaggi, il 28 aprile. Ci sei, Raffaele? Sì, ci sono, un attimo solo che sto prendendo una posizione un attimo più comoda, perché non sono a caso, un secondo solo. Sì. E allora, un documentario che ho avuto modo di vedere la scorsa estate all'interno del Clorofilla Film Festival, sta facendo la sua vita. Di cosa si tratta, Raffaele? Cos'è Zero Waste? Allora, Zero Waste, intanto, prima che il titolo di un film, è una filosofia, cioè la filosofia che dice che è possibile ridurre i rifiuti addirittura a zero, cioè che i rifiuti non sono necessariamente un problema, che possono essere una risorsa e che è possibile eliminare il concetto di rifiuto, di qualcosa che c'è bisogno di disfarsi e che per disfarsene c'è bisogno di fare dei danni all'ambiente. È un concetto legato in qualche modo anche al consumismo sfrenato, ma si può anche continuare ad avere lo stesso stile di vita che abbiamo senza necessariamente dover produrre delle cose che poi non sappiamo più dove mettere, non sappiamo se bruciarle, se interrarle, eccetera. È una filosofia che si sta facendo molto strada, ci sono dei paesi, negli Stati Uniti per esempio c'è San Francisco, che ha un programma e nel 2020 non avrà più rifiuti, zero. Quindi è una cosa possibile, è una realtà. Noi abbiamo provato a declinare paradossalmente questa realtà sulla città di Napoli, perché la città di Napoli ha firmato questo protocollo e quindi da quando la città di Napoli ha firmato, io che sono napoletano, sono tornato nella mia città per capire che cosa succedeva, per capire che cosa era possibile. E da lì è iniziato questo viaggio che mi ha visto incontrare il sindaco, il guru di Zero Waste, politici, santi, magistrati, camorristi, baristi, e il film è il racconto di questo mio viaggio, di questo mio ritorno nella mia città, dove dico che ho lasciato più di 20 anni fa disilluso, convinto che nulla sarebbe mai cambiato, alla scoperta di questa possibilità e vedere come la prendevano i miei concittadini. Quindi questa filosofia può essere mutuata da una città problematica come Napoli in caso, nel, proprio nella fattispecie dei rifiuti? Sì, assolutamente sì. Certo, ci vorrebbero delle volontà forti e poi non è possibile, insomma, a livello locale effettivamente arrivare a zero. Però poi quello che è interessante è quello che ho scoperto strada facendo, perché io sono arrivato diciamo più o meno all'inizio dell'epoca De Magistris, dove all'inizio c'è stata una grossa crisi di rifiuti, poi questi rifiuti sono magicamente scomparsi e quindi io ho cercato un po' dove erano questi rifiuti, dove erano finiti, e a un certo punto, cercando questi rifiuti, ho visto che questi rifiuti venivano imbarcati sulle navi e mandati in Olanda. E lì, insomma, ho fatto delle ricerche e le cose mi si sono un po' chiarite, insomma, principalmente mi si è chiarita la mia posizione riguardo agli inceneritori, che era una posizione un po' dubbia fino a quel momento, cioè nel senso che se ci sono questi rifiuti qualche cosa bisognerà farne. Ma quando io sono andato a cercare cosa c'era in queste balle che venivano mandate in Olanda e sono riuscito con una grossa fatica ad avere accesso allo STIR, che sono questi stabilimenti che trattano i rifiuti, cioè per intendersi sono stabilimenti dove non arriva il rifiuto differenziato ma dove arriva il rifiuto indifferenziato, viene trattato meccanicamente. Nelle balle ci va quella che loro chiamano la frazione secca. Praticamente, che cos'è la frazione secca? È carta e plastica. Come si vede dalle immagini che abbiamo realizzato, questo processo meccanico separa l'umido dal resto e alla fine la carta e la plastica vanno a finire in queste balle che noi paghiamo per andare ad arricchire gli inceneritori olandesi, che fanno un doppio guadagno. Noi li paghiamo per disfarci dei nostri rifiuti, perché ovviamente questa carta e questa plastica oramai non può più essere riciclata, è sporca. In più loro producono energia. Quindi il concetto è molto semplice: se noi riuscissimo almeno a separare la carta e la plastica, un concetto che degli altri paesi europei è assodato oramai da 30 anni, non avremmo bisogno degli inceneritori, per cui tutta la polemica inquinano o non inquinano non avrebbe senso di essere, tant'è vero che nel nord Europa hanno dei vecchi inceneritori, non sanno cosa bruciare e prendono i nostri rifiuti che gli mandiamo da qui. Quindi questa è stata nel film, insomma, c'è la prova lampante dell'inutilità, oltre che la probabile dannosità, cioè la certa dannosità, bisogna dire a che livello, però il discorso per me lì è superato, se gli inceneritori moderni con i filtri sono o non sono. Il concetto del film è che l'inceneritore semplicemente non serve o non servirebbe in un paese civile. Raffaele, allora ti chiedo due cose, chiaramente poi ricorderemo l'appuntamento Sentieri Selvaggi, però ti chiedo anche informazioni web, dove si possono cercare su Zero Waste? C'è sicuramente un evento su Facebook che è stato creato proprio dalla scuola di cinema Sentieri Selvaggi, dove ci sarà la proiezione. Io ti ringrazio, era un po' che ci stavamo inseguendo per questo documentario, finalmente ce l'abbiamo fatta e complimenti anche perché l'ho visto la scorsa estate. Volevo semplicemente ripetere l'evento e volevo chiarire che alla proiezione a Roma verrà Paul Connett, che è il professore americano, il guru della filosofia Zero Waste, per cui sarà un evento importante perché si potrà vedere il film insieme a colui che è il guru di questa teoria, che ce la potrà raccontare, e sarà martedì 28 aprile alle ore 19 alla scuola di cinema Sentieri Selvaggi, che è a via Carlo Botta 19, la zona di Santa Maria, non lontano dalla stazione Termini. Benissimo, Raffaele, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te, ciao Federico, e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie, grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Bene, Raffaele Brunetti per quanto riguarda il documentario Zero Waste, con questo appuntamento romano a Sentieri Selvaggi. eccoci con Alessandro Signetto per parlare con lui dell'omaggio ad Alberto Signetto, che sarà quest'oggi al piccolo Apollo 11 qui a Roma. Alessandro, ben ritrovato. Grazie, grazie, mi fa molto piacere di poter dare qualche piccolo approfondimento sulla serata e su mio fratello, e quindi sono molto lieto dell'occasione. Ecco, per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, ricordiamo un po', diamo qualche linea sulla figura di Alberto. Alessandro, scusami, io dovresti parlare un po' più forte perché ho qualche linea? Sulla persona di Alberto, per chi, soprattutto per i più giovani che non lo conoscono. No, ma io lo posso tranquillamente dire, nessuno si deve colpevolizzare se non conosceva il nome di mio fratello. Mio fratello è stato, fino alla sua morte, che è avvenuta a gennaio del 2014, è stato un dropout del documentarismo e della cultura, cioè il fratello ha fatto circa 30 opere nell'arco dei 30 anni, e in queste opere c'è una grande duttilità. Ha fatto il suo esordio, è stato, per dirti una cosa molto importante ma anche sintomatica, è stato quando ci fu la prima mitica tournée dei Rolling Stone in Italia nell'82. Lui per la Rai, allora la Rai aveva delle aperture oggi assolutamente impossibili, gli diede in mano una piccola troupe e lui fece un mitico film sui Rolling Stone che si chiama Sympathy for the Rolling. Questo è stato l'inizio della sua carriera. Poi lui ha fatto cinema, documentari, ma soprattutto cinema sperimentale per l'arco di 30 anni, e ci sono delle opere importanti. Credo che tra le opere più cliccate di YouTube c'è il suo famoso video di 4 minuti e mezzo che questa sera viene presentato all'Apollo 11, che si chiama Weltgenie, che è una opera di pura creazione visiva dedicata a una poesia di un poeta tedesco, Gottfried Benn, che descrive la follia di Nietzsche a Torino, e lui ha fatto un magistrale lavoro di messa in scena, e questo ha girato in tutto il mondo. Il film è dell'88 ed è, ripeto, su YouTube. Addirittura su YouTube c'è uno che ha craccato il film e gli ha cambiato la musica, per dirti questi fenomeni. Ecco. Poi ha fatto molti documentari di vario tipo. Il mio fratello era nato in Argentina, a Cordoba, e quindi la sua radice argentina era molto forte per lui. Ha fatto difatti un film, anzi due, girati in Argentina, molto importanti, sulla storia dell'emigrazione, che la mia famiglia ne faceva parte, ma anche sulla storia dei desaparecidos, eccetera. Quindi molto duttile, però la sua scelta di vita, uguale a quella artistica, è stato di lavorare ai margini dell'industria audiovisiva, anzi fuori dell'industria audiovisiva. Senti, questa sera allora parlaci un po' delle opere che verranno presentate e anche degli ospiti che saranno presenti. Sì, questa sera abbiamo scelto di fare praticamente tre visioni. Una è Weltgenie, che è quello di cui ho parlato prima, dura 4 minuti e mezzo e dunque chiaramente è evidentemente la cosa più importante, ma anche quella più breve. Poi c'è un documentario che lui, mio fratello, ha fatto una grande formazione di cinema, ha lavorato con molti registi come aiuto regista, e forse il più importante nella sua formazione è stato Theo Angelopoulos, un regista purtroppo anche lui morto tragicamente 2 anni fa in Grecia, ad Atene. Ma per tutti quelli che hanno fatto cinema negli anni 70, 80, 90, Theo era veramente uno dei massimi registi di tutti i tempi. E mio fratello ha fatto ben due cose con lui, e quella che si vede stasera si chiama 20 anni dopo, i cieli della Grecia, ed è una bellissima intervista a Theo Angelopoulos che spiega la sua maniera di fare cinema. Il secondo dura circa 55 minuti. Il secondo è un'opera dedicata a un altro dei maestri di mio fratello, il regista americano Robert Kramer, che è stato negli anni 70-80 anche lì una figura imprescindibile per il cinema indipendente, un regista americano che poi non ha più potuto lavorare negli Stati Uniti, è venuto a vivere in Europa, anche lui morto, diciamo, molti anni fa per un tumore, come è successo a mio fratello. Questa opera si intitola Conversazioni con Robert Kramer, dura di nuovo 52-53 minuti ed è come dire, un ritratto di cosa vuol dire essere cineasti indipendenti, da uno di quelli che, come dire, ha segnato l'epoca del cinema indipendente in tutto il mondo. Queste sono le tre opere che vengono presentate stasera. Sono molto grato ad Apollo 11 che ha fatto questa scelta, diciamo, del Alberto Signetto, virgolette, cinematografico, perché poi lui ha fatto dei documentari molto più classici, compresi due dedicati alla Resistenza, eccetera, eccetera. Quindi è una prova della sua duttilità, mi auguro che ci siano altre occasioni in futuro. Nascerà a breve una associazione a nome suo, ci occuperemo di, come dire, di cercare di fare appuntamenti un po' in tutta Italia, anche all'estero, e far vedere i suoi film. Alcuni sono deliziosi, ovviamente non tutti sono capolavori, ma è stata una persona che ha lasciato rimpianti in tutti quelli che l'hanno conosciuto, perché è finito male, nell'arco di un anno la malattia l'ha stroncato. E invece lui era l'immagine della vita, era grande, grosso. Mio fratello veniva chiamato il rinoceronte rosso, e dunque questa figura poi è stata distrutta, dilaniata dalla sua malattia. Alessandro, per quanto riguarda gli amici presenti questa sera, che... Sì, questa sera sono molto contento che ci sono due persone, di quelle che Alberto amava ma che lo hanno anche stimato. Uno è il regista Mimmo Calopresti, che come sapete è di origine torinese, ha lavorato anche con Alberto, e l'altro è il critico ex Manifesto Roberto Silvestri, che anche con Alberto ha avuto frequenti scambi fino a partire dagli anni 70, e quindi sono lieto che queste due figure presentino. Poi ci sono io e la regista Marilena Moretti, e questa è anche una cosa importante da dire. L'altra sera alla Casa del Cinema è stato presentato un film dedicato ad Alberto che si chiama A spasso con Red Rino, e questo film è un bellissimo documentario di Marilena Moretti presentato al Torino Film Festival, al Bergamo Film Meeting, in altre aree, adesso Buenos Aires tra poco, poi a Bologna, ma è un film che molto rende giustizia alla carriera, alla vita e alla personalità di mio fratello. Quindi saremo in quattro a dare un po', come dire, stura ai ricordi, alle memorabilia, agli aneddoti, e anche ovviamente, se ci saranno domande, a parlare dei film che sono stati appena presentati. C'è uno spazio internet dedicato ad Alberto? Nascerà ah, sì. Insieme a questa associazione, purtroppo c'è un po' di ritardo, la colpa è anche mia, che devo, per dire, prendermene carico. Nascerà sicuramente, vi sarà un sito in cui sarà tutto disponibile, perché non c'è lucro dietro e non ci sarà. E dunque faremo in modo che queste opere vengano viste, diffuse, scaricate e così via. Alessandro, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Molto contento di aver potuto dire queste poche cose. Mi auguro che la gente che lo sente si senta stimolata a fare un salto all'Apollo 11, benemerita sala romana, e così qualcuno che mi vuole approcciare mi potrà conoscere. Bene, a presto Alessandro, un abbraccio. A voi, grazie. Ciao. Ed è tutto per Visionari di questa settimana, il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.